sul canale 10. Ecco, c'è qualcuno sul canale 10. C'è qualcuno sul canale 10? Ah, un io l'abbiamo trovato. Ma, e chi è? E tu chi sei? Mi dire che sei di Cassino, ma come mi è arrivato? Cosa hai fatto? Ho la Sirio Blizzard 2705 ottavi d'onda. Sogna geniale, chi sta sentendo che vuoi bene? Abbiamo anche da questa, come abbiamo tutti. Poi un altro passaggio, ti do il segnale. Ciao, comunque Fabio. Ciao, caro. Ecco il passaggio. Com'è il passaggio? Il passaggino è un passaggino di 9. È una radio di 5. Cavolo, bello, bello. Bello, bello, bello. Anche perché sono anche una antenna ancora più scarcina di quella che uso di solito. Perché nella antenna ci ho collegato un apparato che è di ricezione. Qualcosa e sull'altro arriva abbastanza alto, non so quanto, comunque sono giovane, comunque arriva molto più alto del solito, perché io ho capito, sì, l'abbiamo piazzata oggi, è arrivata oggi questa antenna, e se, anche se metti l'antenna che usi di solito, forse ti arriva anche più forte. Sì, sì, va bene, se cazzo non mi ascolti, doppio rumbo, come mi ascolti? Ho parlato chiuso di solito in questo momento spento, perché comunque non c'è antenna, e l'altra antenna è collegata a una apparecchio che sto riparando, che è un po' rompicato, non stai usando il microfono amplificato oggi? No, negativo, se metti il microfono amplificato spacco a tutti. Avanti, doppio room, che stavi sovramodulando a master. Doppio room, chi sei? Infatti ho pensato, ma non lo sento. Di Cassino, complimenti, senti la voce qua di questo di cartone. Lo so, come ho detto, se mi metto il microfono amplificato, l'MV25 me lo stanno cambiando, se no sarei molto più forte. E adesso sto usando solo un apparato, un base con un microfono normale palmare. Come ho detto, mi spacco i timpani se metto il microfono amplificato. Ricordiamo che vuole spaccare tutto, bello, bello. Se continua così, tu non hai vissuto le lotte degli anni 80 e 90, il debito lì. Ma la gente continuava a comprare roba, antenne, lineari, a fare apparati, di tutto. Se riusciva a schiacciare quello lì, o invece che a schiacciare quell'altro, per avere 5 punti più di segnale, capito? Roba da matto. Ho capito, sì, anche io all'inizio avevo l'idea di comprare un lineare perché avevo quell'antenna e invece ho pensato meglio mi compro una Blizzard e pago di meno perché avevo visto un lineare di quelli valvolari che costava 120 euro e alla fine con 10 euro in più mi compravo l'antenna e non avevo bisogno di lineare perché secondo me se mettevo pure il lineare inizia a saturare. Guarda che ho visto gente attaccati di Blast continuare ad alzarsi il vicino di casa con 100 euro, 100 mila lire per un'antenna e con 5 watt faceva il massimo. L'antenna è la cosa più importante, puoi avere anche un chiodo con il microfono, ma è importantissimo, ce n'è grazie. Lo so, noi infatti ci stiamo concentrando sui paracchini, poi ho detto, non mi sento, guarda, non mi sento nei tanti, e mi devo alzare il segnale, quindi prima ci andiamo a comprare base, è meglio pensiamo all'antenna, poi possiamo ripensare a comprare tanti di base. L'importante è che l'antenna ci sia, l'importante è il baracchino, poi ti sceglierai il baracchino, quello che piace di più, in base a come lo usi, in base alla tua modulazione, in base pure a qualcuno che lo sceglierà l'elettrica. Io non sono tanto per scegliere l'elettrica, preferisco delle macchine serie magari, anche se sono bruttine, ne avevo uno bellissimo che era talmente brutto a vedersi, però era un super paracchino, un super camp, capito, valvolare e tutto, ma era un super paracchino, una paracchione. Ho capito, sì, il problema Allora io non ci arrivavo perché avevo questa antenna, questa minchia, era un play, proprio, che avevo a tipo 2-3 metri da terra. Adesso l'ho messa e a 14 metri di altezza sul radiale, ed è per questo che sto sparando. Alla grande, ma ce l'hai appena provata, io ci metto un portatile. No, sull'11 c'è Gianni Capri, a Urti arrivo 9-5, radio 5. C'è Capri 2 sull'11, non lo so, però perché non su 14 io, che stavo cercando di fare prove di ascolto, e su 12 c'era qualcuno che mi diceva. Fece vedere Gianni allora, ci spostiamo a sentirlo. Ok, mi sposto. Sì, ci sei ricordi? Guarda il personaggio. Qualcuno su Caglio, si ripete che qualcuno su Caglio è qui. Ma c'è la radio già pulita, c'è la radio già pulita, c'è la radio già pulita. è mio che sto corrompendo. Non è lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sul liscio, si è attaccato di lineare. 9, 5, sta finché 9, 2, c'è già va bene allora. Devi considerare che io sto usando la Cumber anche qua, capito? Sì, stai arrivando benissimo, auguri. Adesso sto usando le 260, ma sto parlando da mezzo metro, E voglia, già pompa, già pompa. La pompa non si va tanto, E a voglia, la pompa. La pompa, la Hola, hola, hola. Che è? Marito. Faccia superare, altrimenti dice che deve avere delle radio. Ho capito. Così se non deve avere delle radio, adesso va bene toccare niente. Prova a toccare, va bene. Abbassa il cazzo un pochettino, sei troppo alto, sì. Metti i marchi sulla C, e attacca il braccio solo. Ma che è bello? Sei troppo alto. Troppo alto non lo faccio. Eia. Ma il braccio solo è agganciato, Ma aspetta. Ora, bene Bambi. Adesso sì. Adesso metto il processore. Ti ho detto attacca il processore, cazzo, ieri, al telefono. Però allora dovevi passare stamattina qua, ti sei perso, ti sei. Ho chiamato, sono sceso alla nera, capito? E poi quello qualcosa come l'ho chiamato al telefono rispondendo, non ho capito perché, tu? Sì, già avuto la mattina a casa, io non è che fossi in corsa. Con quelli sono quello qui, tutto quanto la sera. Siamo alle 4 e mezzo, siamo ancora un attimino alla corsa. Cioè, scendiamo un attimo alla GBC, c'è già lo spilota 8. E prova a vedere anche i due, allora, tu fatemi che te lo pago io, capito? Forse sono due campagna. Vabbè, già che era, va. Fammi sapere, allora, non sono neanche serato, sto qua, Io vado a aprire le 4 e mezzo, si apre, sennò già dopo in culo. Stamattina io ho chiamato e non rispondeva nessuno. Ci passo le 4 e mezzo, si aperto bene, se no passo un attimo la fusara, vediamo un po'. La fusara non è fino alla prossima settimana, non gli arrivano, capito? Però questo sono costretto in studio da microfono normale, lascia perdere, che poi diventi scemo che a collegare i cavi originali, lascia perdere. Aspetta, appena apre. Ma infatti non vedo rovinare quel microfono, anche perché è originale, nuovo nuovo. E mi metto a rovinare quello, ma va bene. È appunto per quello. E la fai pure. Bella, bella la radio, perfetta. Per le 10:60 ci vuole proprio, non c'è niente da fare. Tu dici, il microfono normale non va bene, questa è una tracuba. C'è per gara? C'è per gara, c'è un... senti qua la vita mia che mi chiama. Frank. Avanti. Ciao Luca, volevo chiederti un controllino. Controllino, fa un passaggio. 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova radio. 9:10, se dove sei? A casa. In campagna. In campagna sono. Ammazza, ma potresti andare, potresti migliorare. Io potrei migliorare? Voglia. È stata l'antenna? Sì, sta aspettando il microfono amplificato. Vabbè, dico migliorare nel senso, il segnale è buono, dai, 9:10 è abbastanza buono. La radio, ecco, una volta che mi cambi quella sei a posto, comunque vai benissimo, perfetto. Comunque sto ricevendo forte con quest'antenna perché è buona in recessione, molto buona in recessione e in trasmissione. E quella che stavo dicendo, la Blizzard. Sì, l'ultima antenna, quella lì, sì. Diciamo che ha sostituito la Manto, fa. No, arrivi benissimo. La radio che è un po' così, fra, lo senti tu? Franco? Ehi, da Lucario, dimmi. Ma lo senti a Riccardino? Capo dell'ascolto, prima parte del caso. Ehi, ciao Franco, mi senti? 1, 2, 3 prova. Ehi, Santiago 7 sta arrivando qua. La radio è 5, però come radio non è forte. È un apparato mobile, adesso sto provando su un barattino normale, non l'ho attaccato alla stazione base. Già va bene. E avevo degli ascolti lì? Ti dico, non lo so proprio, con questo apparato uno smettere un po' avaro, non è molto affidabile. Te lo posso dire, adesso attacco, mi sta alla stazione base e ti dico. Va bene, ok. Comunque ti ha migliorato, bravo, da prima che di 2, 3, adesso 9:10 hai fatto un bel passo. Sì, grazie Luca, adesso cambio apparato. Prova, siamo qua. Luca! Chi è? Fabio Marco da Corsa. Ciao Fai, beh. Con 2 ci avvedi, fai. Hola, sta, la papà. 9 sei fa. Allora, tanto. E quando ti occupi incendi, ascolta zio, ma tu hai tolto lo smitter che non ti funziona, l'hai controllato? No, lo smitter no, sta andando, l'altro, ma l'anch'io è un po' inciudato. È un po' inciudato, cosa vuol dire? Spiega, cioè non segna quello che deve segnare, secondo te può essere anche elettronica. No, non è bello, capito, limpido, mi sembra un po' inchiodato. Ho capito, perché io quello che ho tolto l'ho controllato, ho detto, bah, magari, non lo so, gli faccio qualcosa, vado a Luca, e invece, bobina interrotta. Prego. Ho capito, avanti. Sì, sono sempre io, ho messo la stazione base. Ripeto, lì dovresti mettere un amplificato e poi sei un bijou. Si fa la modifica, poi magari, non lo so, bisogna aprire la LC per la modulazione. Vediamo un po' se ti ascolta Fabio Master, vai fa, lo senti a Riccardino. Capo, vai un passaggio di capo lungo. Comunque ciao Fabio, prima non sono andato senza dire niente, 1, 2, 3 ma lui sa che sono migliorato quello mobile dal baracchino alla stazione base. No, stai scendo male, sei tutto Ricca, stai attento che c'è qualcosa che non va, o IPL, non lo so, controlla bene perché è brutto, brutto. Questo mi sono ascoltato, c'ho anche l'eco sotto, ragazzi, sembro uno della discoteca anni 80. Venite a ballare con noi, alla ballora in giù al mare, venite, kappa. Questo è il mio guaccio di strada. Povero M600, aspetta se ne trovo un altro usato, da che è il mio microfono preferito. Questo mi sembra che, non lo so, se dopo 30 anni di conti che ha preso, 4 kg di polvere, ho dovuto trovare le viti diverse per rimontarlo, componenti tolti di me, non si capisce, cazzo. Poveraccio, sta andando un po' male, mi sa, Adesso come sto andando? Sono migliorato? Sentite sempre il rumore, aspetta, vado importante? Ora si sta ritrovando il segnale qua, perché prima mi toccavi 7, adesso sei di nuovo sul 9, come con l'altro apparecchio. Ok, allora va bene con questo. Ah, perciò hai ricambiato, hai rimesso quello di prima? No, un'altra stazione base, ho attaccato un'altra stazione base. Allora, prima stavi girando con uno, poi hai messo una stazione base, adesso c'è un'altra stazione base, ho capito bene? Sì, hai capito benissimo. Perfetto, quell'altra, non lo so, c'era qualcosa che non andava, perché si sentivano dei rumori sotto la radio risultava un po' pazzina e poi si sentiva capito? Una roba brutta da controllare. Sì, il problema è che la stavo alimentando a 220, me lo dice anche Roberto che a 220 quando lo collega a 220 fa sempre un rumore di alternata, invece se lo attacco a 12 volt funziona meglio, non si sente il rumore di alternata. Ottimo, ottimo, allora abbiamo già capito qual è il problema. La sezione di alimentazione di quella stazione base è da controllare, tipo cacchio un condensatore o anche se una cacciatina. Ho capito, sì. Vabbè, di solito lo attacco a 220, però quando mi dite che anche Roberto che si sente questo rumore, io metto subito a 12 volt oppure cambio la stazione. Sì, sì, è inutile tenerla così, No, non gli fa bene secondo me, perché brutto. No, non usa il suo alimentatore, non usarlo fino a quando non ci si mette mano e torna pulito, perché tenere così un apparecchio mal alimentato possono venire fuori danni irrimediabili, tipo roba strana in media frequenza, capito? Insomma, tenetelo bene con l'apparecchio, non usarlo con il suo alimentatore. Penso di lasciarlo a 12 oppure non usarlo proprio, controllarlo perché non è una stazione base che la prendo tutti i giorni. Che stazione è? Se la vorresti cercare, il Berry Stalker XII sarebbe 12 in romano. Ma produzione di dove? Scusa, riprendo subito, dai, che sono andato alla pressione. Sì, che mi sto leggendo il giornale, sono qua, là. Ok, riprendete. Certo, come parlate in sette? Stavo dicendo, questo tipo è Risolver 12, è di una produzione americana. Apparecchio cazzuto, anni? 78. Di granito, apparecchio di granito. Bello. No. Voglio controllare l'alimentatore senza toccare niente altro, per carità di Dio, solo l'alimentatore. Adesso con questo sta arrivando forte anche. Sta arrivando forte in che senso? Di radio e anche di segnale, prima con l'altro era un 7, adesso è un 9-10. Sì, l'altro stavo uscendo a un watt è qualcosa, perché su questo antennino piccolino sono carico le stazionali. Invece questo qua non gliene frega niente, gli puoi mettere un pezzo di filo e sta andando, poverino. Lui sì che vecchia leva. Sempre bene. Comunque Luca, ci sei ancora? Ciao Gianni, anche tu mi stai arrivando forte adesso. Va bene, grazie Gianni, a più tardi o a stasera. Cambio per Fabio Master, se senti il muro. Capa che lo sento il muro, magari con questo antenino qua non mi sente KP2. KP2 li ascolti per i saluti? No, è già andato pure, non ci arrivo, dove cambia l'antenna, solo che la voglio tenere l'altra, sull'altro che lo sto guardando in ricezione, capito? Non lo voglio mollare per adesso. Ho capito, Luca, ci sei ancora per salutare a Capri? Sì, che ci sono, ciao Capri, se mi ascolti, ma posso dire sì. Sì, stavo leggendo il giornale, dai. Grazie Chioro, saluto di ben entrato. Avanti Riccardino. Saluto anche a te, Claudio. Comunque mi hai detto tuo padre, l'hai sentito che ci sta arrivando a 9.15. Ok, sì, anche tu mi stai arrivando forte adesso, con questa antenna e buone recensioni di trasmissione. Sì, ma me l'hai detto che stavo arrivando proprio forte e adesso non ho il microfono amplificato, se no andavo ancora meglio. Bianco per me. Se tu hai detto 9.10, 9.15. Claudio, tuo padre ha detto 9.10, 9.15. E tu sai che a 7 gli stai dando. Tuo padre ha detto a Riccardino che arrivava a 9.15, però Riccardo 9.10, 9.15, ti ricordi? Riccardino. Sì, mi hai detto mi arrivi 9.15. Va bene, non si dai, basta che mi sei sempre più forte di prima. Ecco, ci sta un bel. Avanti. Ciao, aspetta che tengo qua. Fabrizio da questa parte. niente, no, sto facendo una cosa abbastanza importante, ma ho sentito il ritardino che vi stavo ascoltando, adesso ho appena acceso, e ho visto che sta arrivando da 5.6, 9.20 qua sta arrivando, se non disturbo cosa hai fatto Riccardi? Grazie Fabri, avevo perso l'ante, ah, boh, non lo so questo che disturbo, ciao Fabrizio. Se puoi, se ti voglio chiedere un controllo. Arrivi, guarda, arrivavi 5, 6, 7, 7 forse anche, dai. Stai arrivando 9.20, se hai cambiato l'antenna stai andando benissimo. La radio si sente che bassa, ma adesso con questo segnale non c'è più. Quando metterai il microfono vedrai come esce. Sì, comunque sto usando la sostituta un po' della Mantova, la Sirio Blizzard 2700, in questa vidonda. Così non ce l'ho presente, però se una 5, vabbè, comunque va benissimo, là. Qui arrivi benissimo, confronta prima un abisso, non so gli altri, avanti Luca. Sì, ciao Fabri, è migliorato molto, molto, molto, lui ha voglia, la radio adesso deve, come si dice, deve perfezionare. Riccardi, quando ti arriva il microfono, me la dai a me una radio, un microfono, al limite, ti do un'occhiata, te lo cablo io se vuoi, te lo cablo e vedo un attimino se c'è da aprire qualcosa, LC, controllare dentro, mi guardo lì, ti faccio qualche cosa, te lo faccio uscire anche meglio, vedi tu come lo vuoi fare, non ho problemi io. Sì, grazie Fabri, se mi fai questa cosa via, vediamo di migliorarlo anche. Claudio mi voleva fare la modifica per il microfono per la il settaggio 25 a renderlo più forte, a cambiare la capsula. Ma io non lo so, non so che si fa, mi va un ponticello, c'è da giocarci su, ma poca roba, e già va benissimo, non, col microfono non credo che ci sia bisogno di cambiare la capsula, su quel, non lo so, io non me ne intendo la verità, so solo che quel microfono io l'ho avuto e usciva abbastanza bene, proprio l'MV più 5 andava molto bene, con la sua capsula e tutto. Ok, grazie, va bene, allora non lo tocco, no. Lo lascio così che tanto con questa antenna il microfono amplificato dovrei andare sempre bene. Buon tratto. Ok. No, non toccare niente, guarda, un consiglio, il microfono giusto con la modifica del ponticello, che praticamente non fai altro che una resistenza alla fine stai eliminando e quindi lui praticamente cambia quello, lui praticamente esce più forte, spinge di più e messa lì appositamente perché in alcune radio potrebbe creare problemi, però quel ponticello si toglie o si mette, non mi ricordo, bisognerebbe guardare in rete, e fallo, quello fallo sicuramente, però non gli cambiare capsula, lascia l'originale, il microfono, poi se ti vuoi giocare ce ne vendono tanti altri microfoni d'epoca, Turner, io ci faccio su un super CD della Turner e utilizza direttamente con una radio una radio VHF da base e va meglio sia del suo microfono del MC60, immaginate un po', anche del suo microfono adatto quello di linea. Quindi fai come così un consiglio, poi vedi tu. Sì, grazie per i consigli Fabri, adesso vedo, cambio per Muros, se no riprende Luca. No, la manto non è una Mantova, l'antenna è la sostituto della Mantova, è una Sirio Blizzard 2700, il microfono è originale della stazione base, non lo sto usando l'MV5, sto usando il microfono di questo accolto Black Shadow. Sì, vediamo un po', Angelino, D'Alighiero ci sei? Angelino, ci sei? Mi ha mandato un messaggio, aspetta, controllo. No, niente, no, adesso che ha detto che ha ritirato tutto, qualche ora ha pensato la Mantova, Angelino di Alighiero. Ho capito, sì, anche a me sarebbe piaciuta la Mantova, però ho trovato questa che, come ho detto in molti, è la sostituta e mi va bene questa. Quanto gli sia piazzata bene, che è tarata bene nelle stazionarie, quanto sono, 1 e 1? Sì, sono meno di 1 quasi. Ho capito, meglio così. E adesso devi... come si dice, devi migliorare con la radio, dare un po' di amplification. È alta quanto un palazzo di 4 piani, è un 14 metri in tutto. Un cammino del mondo. Comunque, spero non me la butti non me la butti in vento, con il vento forte non me la butti a terra. E perché devo essere così cattivo con te il vento? Dai, che se è a strada già rimane lì e incrociamo le dita. Ma non sai dove sono, che c'è un bel vento quando... quando vuole il vento già è forte qui. Ma non deve essere cattivo. Il palo è bello solido, sì, oscilla molto. No, oscilla molto, però so che in questa zona con il vento hanno buttato giù diverse cose. Vabbè, noi siamo positivisti, noi pensiamo positivo. Che il palo abbia, se è così alto, qualche tirante, in maniera tale che non faccia troppa oscillazione, poi l'antenna già ottiene il vento, sono antenne per tenere il vento anche forte, basta che siamo ben fissate, capito? Ce l'ho quando parli lontano, la radio non ci piace. Stavo dicendo, lo dice il catalogo che è resistente al vento, bisogna vedere la pratica. Quanti radi ha? Ho parlato sopra, Luca, anzi al contrario, meglio dire. Dico, quanti radiali ha questa antenna, Riccardi? 8 radiali. Va bene. E anche Angelino ha fatto l'ultimo lavoro, mi ha mandato la foto adesso. E allora speriamo che dopo che entra Angelino di sentirsi, di solito non gli arrivo. No, ma sono sicuro che gli arrivi adesso, perché si è passato proprio dalle stalle alle stelle. Poi una ciclotavi, stiamo parlando di un'antenna superiore a quella che avevi prima, ma poi si vede il segnale, però facevo fatica ad ascoltarlo. Solo vedere perfezionare la radio, dai, ho detto Fabrizio prima, un MBP5 o un altro tipo di microfono, magari un po' aperto di ALC e la musica cambia, dai. Quando te riprendo io, Lucas, quando ti viene bene fammi un po' di foto e mandameli, Riccardo, degli apparecchi che c'hai, e mi scrivi quale vorresti usare in linea di massima. Io do un'occhiata per vedere se ne conosco qualcuno e vediamo un attimino di cablare quel microfono per quell'apparecchio e poi vedere un attimino per farti uscire una un'ottima radio. Vabbè, ma a parte che già con quel microfono vedrai che cambierà tutto. Ecco, quello che importa è il segnale, la radio anche, ma il segnale sta arrivando 9.20, da 6.7, immaginate un po' quanto è migliorato. Va bene, meglio che va bene, riprendi Riccardino e fai girare che sono qua. Ok, dopo ti mando anche un video che ti dico la stazione. Cambio per muro. Già ho capito che voleva dire che mi sentiva. Avanti! Angeli, basta, arrivi a me. Segnali uno sei liscio, Ciao Angelino, mi senti? Sì, sono Riccardo già. Anche tu adesso mi stai arrivando bene. Sì, positivo. Ho cambiato antenna. Strano, arrivo così in basso, cavolo, non ci contavi, arrivi in basso. Arrivavi tre prima staccato, sei uno. C'è una cosa che non va di. Luca, mi senti? Sì, saltiamo 7. Ehi, sto facendo delle prove, dai, andiamo bene. Adesso arrivi abbastanza bene, a Puglia, eh. È migliorata la ricezione? Ricevi meglio o sempre uguale? No, ricevo molto, ma molto meglio, a Puglia. Adesso i segnali le regole sono tutte belle forti. Adesso intanto il numero lo abbassare a pelle. Grazie, cambiato la giornata la notte, ma soprattutto non c'è più stazionario, tutto 0-0-0. Santiago 8 sta segnando qua, lo so da Fabrizio, vediamo un po' se c'è Fabrizio. Sì, vieni avanti. Ciao Fabrizio, buonasera, me l'ha sentata, il numero a te. Ciao Angelina, adesso arrivi qua, io mi ricordo il tuo segnale, la verità. Comunque 8. Bene, bene, positivo, dai. Lavori terminati, basta, finito così, non ne voglio più toccare. E la cosa migliore poi in questa banda è molto semplice, monta una 5 ottavi e è finito, la porti a un'altezza che riesce un pochettino a svettare, che non hai nessun ostacolo davanti e basta, poi tutto il resto è noia, e hai già fatto il 90% delle cose. Il resto, scusate il telefono. Sì, ma sono qua, un attimo mi sono alzato, però mi sono riposato un po'. Adesso mi alzo e faccio un merenda, voglio qualcosina, qualche cracker, se no voglio roba che fa rilassare, non va bene, dai. C'è comunque anche Fabio Marco, non so se è rientrato, Claudio da Muros, avanti Claudio, senti Angelino. Ehi, andiamo bene, buonasera a tutti comunque, dai. E beh, Riccardo, adesso come metto il microfono amplificato mi sentirai meglio. Ma come ti sta arrivando in grazie adesso? 8 e radio 4 o 5. Bene, bene, allora sono contento, va veramente. Almeno si vede, diciamo, sentirci tutti, cavolo. Anda bene, anda bene. Sì, medesimo segnale come mi ha dato a me lo stesso Claudio, giusto? È un Santiago di 9 e una radio di 5. Ok, Angeli, Alghero ci manca. Come, scusa, dimmi, non ho capito. Alghero ci manca. Che ti manca, a te? A tutti. Ah, sì, infatti non manca, anche a me che ci abito a 5 km, fatti il conto. Sono una settimana in Italia, ancora non sono uscito, non vedeva di scendere. Ma soltanto con questo maltempo, non poco ce la godere. Ho capito il cinto proprio anche perché abbiamo parenti ad Alghero, mia madre è di Alghero. Ah, interessante. E beh, lo dai, Santiago 8, Pini, Positivi, mi tocca passare il volume perché adesso arrivati molto più forte. Seria, beh, è normale. Cazzo di radio. È normale che poi quando cambia antenna, aspetta che Fabrizio lo metterò a 50 anni qua. Diciamo, cambia la musica, ecco. Quindi tutta un'altra storia, comunque da questa a quella, soprattutto per stazionare, tutto completamente a loro. No, ma poi anche i disturbi, questa roba qua, adesso, molto meno. Ascolta, quanto l'hai messa la spirale dal bullone? 7 centimetri? Sì, positivo, ho mantenuto lo standard, non ho niente toccato poi. Cioè, l'ho smontata tutta completamente per pulirla, per migliorarla. E poi l'ho rimessa, diciamo, a 7 piedi precisi. Devo dire che va tutto bene, poi la lunghezza dell'antenna l'ho messa standard lo stesso, i radiali li ho revisionati, niente, già dovrebbe andare bene. Via, avanti Fabio, ci sei. Riprendi Claudio. Io sto merendando, riprendi il cammino. Buon appetito Luca, cosa stai mangiando di buono? Voglio comprare lo spinte, si chiamano snack e crackers, buoni E oggi mi sono, guarda, come si chiama, mi sono cambiato un connettore di telefono, di Huawei Honor, un casotto, però ci sono riuscito, molto difficile sostituirlo. Poi bisogna toprirlo bene, comunque là sono veramente contento di riuscire a fare certe cose. Ho capito, la merenda dello sportivo. Come? La merenda dello sportivo. Sicuramente. Angeli, hai fatto un capolavoro per quanto riguarda il connettore, micidiale. E non ho fatto manco le foto. Angeli è sparito. Ho detto, per quanto riguarda il connettore del telefono, ho fatto un capolavoro. Saldante, lavori bene, ma se vai con saldatori o cose da terra a terra è un casino, proprio piccoli, le saldature, piattore, con nanotecnologia è un casino. Vabbè, ci vuole l'aria calda, quello sì, per dissaldare il vecchio. Una volta lo dissaldi ci vuole un coso, come si chiama? Ce lo devi pulire bene bene, deve essere pulito, poi una volta tu devi piazzi, flussante, te lo blocchi prima, no? Dove c'ha i quattro cosi per bloccare, devo mettere due punte di saldatura e poi inizia a saldare il connettore, diciamo. Col flussante bisogna saperlo fare, non è semplice. È un po' difficilotto, io mi metto in difficoltà a volte e volte. Già la scatoletta ne ho fatto un paio, ma non ho fatto plenario. E non ho fatto tutto, cazzo, il saldatore non avevo problemi. Ma adesso devo utilizzare un grande studio perché con quest'occhio non vedo bene dall'occhio sinistro. E molte cose, anche a livello di modellismo, mi fa sclerare. Mi pensa quando devo fare quella roba nano, proprio piccola, a livello modellistico, e mi sclero. E vabbè, però basta usare gli ingranditori, i lenti con la luce lavori bene. Adesso me li devo riordinare con gli occhiali là perché gli occhiali non si sono rovinati. I ingranditori. Sì, sì. Eh beh, certo, ci vuole una lente per fare questo tipo di lavoro. Già, sono cose belle, là. A me piaceva un sacco fare questo tipo di cose. E vabbè. Poi se vai a cambiare, aspetta un attimo, c'ho un tipo, vediamo un po'. Ah, bonifico bancario, vediamo. Poi devi dare tempo. No, posso sapere che attacchi al cavolo, sul gumaculo. Allora, questo qua praticamente vuole un bonifico bancario, vado sul sicuro, un attimo il telefono. Sta parlando al telefono. Ok, riprendo io, scusate un attimo come lo scarico per una settimana. Andiamo. Una Vivio Blizzard 2600, 5 ottavi d'onda. Comunque sì, un attimo di bianco per me, continuate. Sono vicino, e lei. Non ti mi piace, sì, perché tu ti sei allenato tutto, era un tempo. Un angelino! Stavo parlando con Claudio. Un angelino! Ehi, avanti, chi è? Giulio. Ciao Giulio, benvenuto, buonasera. Cosa hai combinato? Mi stai fermando meglio degli altri giorni. No, fammi rogliero. Sì, è migliorato, dai, ti sento un po' più forte. Va bene, va bene. Ciao Claudio. Se mi arrivi a stare molto basso, faccio fatica, devo aumentare il volume per ascoltarti. Per cui, va bene, dai, non fa niente. Meno male, la giornata già è pulita, non c'è molto QRM, dunque già riesco a capire quello che dici. Va bene, dai, divertitevi, continuate pure, che io faccio qualcosa qua. Riprendi pure, Angeli, a dopo. Ciao ciao ciao Claudio, ciao Angelino. Ciao Giulio, dai, adesso si viene, dai, ci stiamo piccando. Ebbene, Carino, Daniello, Vignelle, tutti quali tutti là, adesso mi sto proprio rilassando, mi sono toccata una bella ampolla, ho diventato tutto il fronteggio, ma che mi sono piazzato il nuovo fronteggio, ovviamente è meglio, in grandi, struttura di sicurezza, che ha lavorato di lusso, mi sento stamattina presto, non c'era un filo di vento. Ho fatto finendo di mettere il palo con l'antenna su, bloccando il primo morsetto e alzando sul vento, di culo proprio. Quindi adesso ho montato tutto, ho montato con il foglio, dalle varie, finito, basta, adesso rimane l'unico ma il foglio, quindi devo fare dei lavori fini qua in laboratorio e lui mi fa tutto, tanto la stazione già è a posto. Sì, sì, mi scusi il telefono un attimo, ti richiamo, di solito il call center di... Penso che sarà una di quelle cose che farò più avanti. pulito, più pulito possibile. L'altra volta pensai che non ci sono stazionari. Vai in uso, da tutti, mi ti diverte, buonanotte. Ah, sì. Beh, se, alla fine sei a posto, non ci sono problemi, la fine non è storta. Io non so se la Silvestra 27 adesso la monto a metà e la conservo sempre in riserva. Poi mi sono creato dei gabbialini per amante dell'alluminio, adesso sono diverso di quelli, in caso si deve essere spezzare un po', la faccio che salire al volo, piace quello e poi rimediano l'altro, lo capisco. Non devo rimanere mai senza la struttura, io sono quelli che devo sempre avere, mi piace che cambia spinto in caso che succeda qualcosa. La cosa mi scoccia fuori è mollare il tutto per una fisseria, prima lei ti tocchi e non accendi più niente. Ah, quindi hai un po' di impedimento anche nel discorso, o potessi comunque accedere per l'antenna. Ah, capito. No, guarda, infatti anche qui, volendo il mio padre, mi sta dicendo, vuoi mettere l'antenna? No, tu non metti qua di quei cazzi di acqua così. Ecco, siamo il palo della luce e abbiamo messo un bel palo della luce, piantato bene a terra e ogni qualvolta devi fare l'installazione o cos'è, conteggio. Pensate, un bello che qui bello con il blocco di conteggio al palo, non si muove nulla, sei tranquillo, perché hai problemi sul petto, mentre devi andare a toccare l'antenna, e poi dallo esterno, ecco, invece qua, toccare giù, cadere sulla pietra, toccare a terra, non c'è bisogno di fare danni. La beata fortuna di essere in campagna e avere lo spazio per poterlo fare. In città lo so, è un casino. Non so cosa vuol dire, così ti vuoi dire. C'è una portante, Claudio, sei tu per caso? Avanti, c'è un'altra portante, avanti. Ah, ciao Roberto, ciao, ben sentito. Benissimo, sono con Claudio. Poi c'era anche Carlino e Luca. Giulio, ma sono in bianco, non c'eresti. Ah, capito, bene. Se hai la radio, capisco, ti sento ancora meglio, di più nella percezione di come ti sento gli altri giorni. Già va bene. La cinque stadi, e poi magari in questi giorni facciamo una prova anche con un altro paio di apparati, perché se vicino, consumisci con altri microfoni, quindi almeno tutto qua vicino. Sì, mani. Aspetta che scusa il telefono. Vabbè, guarda se mi sta sentire a Claudio. Come mai non c'è nessuno che cambio? Beh, sono rientrato, c'è qualcuno? Sì, ci sono io, ha detto Eugenio, sono su 10 e non lo sento. Eugenio, ci sei? Basta chiamarmi, sono qua. Ed eravate muti, pensavo che stavate parlando. No, oggi c'è, arriva forte Riccardino. Ciao Riccardino. Fogna segnali. Anche voi ne arrivate tutti forti. Chi è Riccardino? Cosa dite? Cosa hai fatto Riccardino? Antenna nuova hai piazzato? Sì, positivo. Antenna nuova. Meno male, almeno ti ascolto. La differenza è abissale. Sei passato tipo da 8 a 9 più 15. Riccardino, prova a parlare. 1-2-3 prova, 1-2-3 prova radio, 1-2-3 prova. Ah, niente, occhi. Dite a Riccardino, cosa lì dai, segnalone, uia. Ah, ma rotta c'era qua. E allora, bucata va c'è. No, perché poc'anzi ho sentito il silenzio, non c'era nessuno, poi ho sentito, e c'è anche quel cuocomane di Natalino e di Luca Del Monte. Sicuramente cuocomane abusivo sarai tu. Soprattutto abusivo. Chi è l'altro con il segnale più basso? Non è Eugenio, è un altro, chi è avanti? Oh Marco, ti mando un messaggio, Marco, ti mando un messaggio su WhatsApp un attimo. Eia. Chi è l'altro? Natalino, ti chiamano. Mi chiama. Se non lo sentono, sarà Angelino di Alghero, forse. Certo, Natalino, ha messo la moto, ma non lo sentivo con la moto. Ma vai, Angelino. Nisba, incomprensibile. Sento che parla, ma non capisco quello che dice. tu non c'è problemi alla taglia di recessione, magari non vedi problemi. Scusa, non senti mai qualcosa, Riccardino. Ma Riccardino lo sento benissimo. Allora se è negativo poi anche la tariffa. No, la gente arriva il segnale 8 qua da me. Non so da Marcolina, Marco Cosa, avanti Marco, andiamo a tariffa Angelino. Allora, Angelo qua è Santiago 7 e mezzo. Radio buona, vai Angelo. Ciao Adama, abbiamo lo stesso segnale, dai, sento il mio 8, lo stesso radio 5, sì. Ah vabbè, il Natalino è salito di un punto adesso di segnale, riesco a sentirlo meglio, ma sicuramente lì da problemi di recensione, lì va lì. Beh certo, però sicuramente, è così, se non ti sentiamo la mano qua. Capisco, magari una mezz'onda, una 50 abbia adesso, poi hai fatto un ottimo lavoro, perfetto, dai, va bene. E vediamo un po' chi c'è rimasto, hai visto Marco WhatsApp? Luca, ah ok, ciao Roberto, a me in mezzo al QRM mi ascolti? Ok, dai, vabbè, non posso fare altro, va bene, dai. Vabbè, anche tu sei messo male con l'antenna, non è un'antenna apposta per questa frequenza, che dipende da te. Perché Angelo mi ascolta bene. Ok, dai, avanti Riccardo. Ok, riprendo io. Ciao Roberto, mi ascolti adesso? E questo è importante. Ok, comunque saluto anche a Marco. Ca. C'è una portante rumorosissima, bassa di segnale, tipo 8, ma è rumorosissima. Da me non arriva, è uno, dimmi la tali. Fate venire avanti a Riccardino, voglio avere il segnale. Buonasera a tutti. Pronto? Sul tetto. Vorrebbe almeno 3 metri per risuonare un po' come si deve. È logico che non li sento quelli di Alghero. Se mi arriva a Santiago 5 e faccio il QRM a Santiago 5. Infatti se il QRM abbassa magari lo sento. Ho capito, va bene. Cosa hai detto qua? A fare venire avanti a Riccardino, voglio fare il segnale, buonasera a tutti. Ok, ciao Claudio, il segnale, mi piace qualche consiglio per poter migliorare il segnale e la radio. Mi devi mandare le foto a vedere quanto è da terra quell'antenna, perché mi sembra stai radiando poco. Sei solo 9 più 10 qua, comunque il segnale è buono, da 8 a 9 più 10 va bene, però potresti fare molto meglio. Ok, non so come migliorarla, perché non so neanche se calarla, perché abbiamo messo a calare e non a calarlo ci abbiamo messo poco, a rimetterlo sopra perché c'era il palo di che vedo che cosa posso fare. Vabbè, comunque per fare quei lavori dille a Sergio che ci vuole gente, non si fanno questi lavori così. Se ha bisogno sa dove trovarmi, dai. Io vi lascio, sto rientrando adesso e ho cose da fare. C'è un break, buonasera a tutti e ci sentiamo, ciao ciao. Ok, grazie Claudio, per il anche a te. Non sapevo che, pensavo che eri ancora in frequenza. E vabbè Claudio, ha detto Bobo che è già stato, anche lui dove trovarti se ha bisogno di aiuto. Ciao ciao Claudio, sei rimasto. Troppo forte sì Riccardi, troppo forte sì. Claudio Sparvie, cosa eri da sì? C'è Eugenio, la gente supera, che ha superato il QRM. Ciao Eugenio. Ciao Super Natale, zio Natale, da oggi ti chiamo zio Natalino. Ti va bene? Se mi chiami? Zio Natalino. Anda bene. Claudio, quanto ti arriva Riccardo? Se qualcuno sta parlando, eh beh, spariti tutti. Allora, infatti, pensavo che c'era qualcuno basso che parlava e qualcuno ascoltava. Lugania, ancora. Ehi, sto andando. Quindi radio, mi sono cambiato ogni volta quando è venuto il Claudio, mi sfondate il tutto. E addirittura, ma... Se ti stai dicendo che adesso è una cosa allucinante, sì, sì. Vabbè, che tu hai migliorato il radio, è migliorato e come? Arriverà grande. Perfetto, dai, va bene, va bene. Ottimo segnale. E' Natalino che purtroppo diciamo l'antenna bassa non ti riceve, poi dice che c'è QRM. E ce l'ho un metro. metro. Un metro e c'è fuori il tubo. Dopo che radiesce l'antenna. Minimo con 3 metri. Se la mania li fa mettere in 4, va bene, cazzo. Cerchiamo di parlare una alla volta, quando vi rilanciano parlate, no? Che ripete così. Stavo dicendo che arrivi benissimo tu, capito? E poi è andato il Natalino che purtroppo ha l'antenna bassa, dice che esce un metro, non so, forse ho capito così, vabbè. E poi la donna è quella che è. E dai, hai fatto un ottimo lavoro a giri futindini, già andi bene. Ma sto facendo cosa, dai? Parlate una alla volta, se no non si capisce, non ci devi. Allora, non vedo più nessuno. Insomma. Riccardino. Mi dica Sire. Ah, allora già ci siete, sì. Così non c'è sempre il dubbio oggi. Quando sta parlando Cosio d'Alghero, Angelino, tu non lo senti e parlate in tre. Sente Eugenio, non ti sente, quindi quando stai parlando tu, lui pensa che non stia parlando nessuno, parla lui e non si capisce più niente. Ma io non sento una volta fare il rilancio, io quando non sento nessuno aspetto sempre a me il rilancio, se no non cambio una cosa. Vabbè, sono qua in ascolto, vai, sto finendo una cosa, poi più tardi ci sentiamo, signor Voglia, e se c'è silenzio, se no ve la biglietti in luce. Allora Freddy Gasillo, dai, così non entra, e lo giro per il scatto, dai io. Già ti posso farmi dare un porto, boh, a te sì. Riccardino, ad Alghero ci arrivi. Che cosa? Ad Alghero ci arrivi, sì, ti sente quello di Alghero? Sì, mi sente sia Roberto che, cos'è, Natalino, no? E Angelino. Ah, Angelino, quello di Alghero, ehi, a me non mi sente. A me non mi sente. Dai, accidenti, oh. Sì, mi sento, cambiamo 4, Radio 3. E Uge, ha detto che ti sente. Ah, mi sente? Io non sento a lui. Io non sento a lui, tu? Ha detto Santiago 4 Radio 3. Addirittura. Là. Io a lui, Angelino, non ti sei, non ti sento. Prova se hai la possibilità, aumenta qualcosina se hai la possibilità. Angelino! Sì, ma lo senti Eugenio? Sì, non l'ho sentito, ma è in movimento lui. No, a casa, Eugenio non lo senti Angelino. Adesso l'ho sentito basso basso, Angelino. Aspettate che se non mi cagli uno, vabbè, o passiamo al 15 o se non cagli uno, non riesco. Ha detto, passiamo al 15 o... Angelino, Angelino. Mo si è spostato sicuramente, là. Vabbè, là, ha messo la 5 ottavi, ha messo. No, comunque l'ha migliorato, alla grande. Va bene, anche come si chiama, Riccardino va benissimo. Deve migliorare un po' la radio, comunque, vabbè. Avanti Claudio Lamuros. Anche io ti sento più forte, meno male che è arrivata presto anche questa antenna, che la stavo aspettando bastante.